got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. No, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. E i film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. No, volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nudezzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che vi porta a prendere le culture che sono arrivate nel nostro paese, che stanno contribuendo a cambiare anche l'Italia attraverso il successo che le persone di origine straniera hanno nei diversi campi. E questa sera abbiamo una giovane ragazza ospite, io do il benvenuto a Sirin Sharabi, buonasera. Buonasera a tutti, ciao ragazzi. Sirina ha un grande sogno, no? Poter gareggiare ai mondiali di pugilato che si terranno in India il prossimo novembre con la maglia azzurra, perché appunto è una boxer italiana, ma può riuscirci solo superando un ostacolo, il più grande oggi, il suo passaporto. È così, Sirina? Sì, è così, in quanto io ho il passaporto del mio paese di nascita, passaporto tunisino. Senti, Sirine, so che tu ci hai portato un piatto a Radio 24. Noi invitiamo sempre a cena i nostri ospiti, siamo contenti di avere una giovanissima atleta italiana ospite. E qual è il piatto che ci hai portato questa sera? Questa sera vi ho portato il couscous, un piatto tunisino che prepara mia mamma molto bene e io amo da morire. Ti senti più tunisina o italiana? Beh, guarda, io mi sento il 70% italiana e il resto tunisino. Quindi tu sei tunisina di origine, però combatti, sì, diciamo, in Italia, pratichi questo sport in Italia. Sì, assolutamente sì. Sono arrivata qui in Italia all'età di 3 anni e ho vissuto qui, ho frequentato tutte le scuole qui. E dove vivi? Vivo a Caserta, precisamente a San Prisco. Quindi radici comunque anche tunisine a casa tua, dove si mangerà però anche cucina campana. Assolutamente sì, infatti qui cuciniamo un po' di tutto, dal tunisino all'italiano, a un po' di tutto. Come è nata questa passione? Questa mia grande passione è nata grazie a mio cugino, che ha frequentato anche lui la palestra dove adesso io continuo a frequentare. E un giorno mi ha portato in palestra e da lì mi sono innamorata di questo bellissimo sport. Quanti anni avevi? Avevo 5 anni. Thank you. all'età di 5 anni piccola ovviamente c'erano le gare dei giochi della gioventù e sin dall'inizio ho sempre ottenuto delle belle vittorie, poi arrivando all'età di 14 anni e riuscire così a gareggiare, diciamo, a fare dei veri e propri incontri ufficiali all'età di 14 anni. E quindi hai continuato, sei stata due volte campionessa italiana junior, no? Sì, sì. Ci spieghi in cosa consiste? È una bella soddisfazione. In cosa consiste questo campionato junior? Sì, allora il mio primo campionato l'ho disputato nel 2013, avevo quindi 14 anni. E praticamente in questo torneo ne fanno parte tutte le regioni d'Italia. Io ho rappresentato la Campania, poi c'era la Sicilia e lì ho disputato 3 match, tra cui quarti, semifinale e finale, diventando così campionessa italiana. Hai fatto dei diversi match contro la Francia, la Romania, altre pugili internazionali, no? Hai vinto anche il guanto d'oro. Sì, è un torneo di cui fanno parte gli 8 migliori pugili d'Italia. E tu sei stata selezionata per questo. Sì. Però adesso, insomma, ci sono le competizioni ufficiali e in quelle tu non puoi competere. Sì, purtroppo sì, perché potrei anche competere con il mio paese d'origine, ma il mio sogno è quello di indossare la maglia azzurra, ovviamente. Sono italiana di fatto, ma non di diritto. Perché tu hai il passaporto tunisino soltanto. Sì, sì, sì. Tu domani compirai gli anni, no? E quindi potrai teoricamente chiedere, una volta diciottenne, la cittadinanza italiana. Sì, infatti una volta diciottenne potrò chiedere la cittadinanza italiana, però non so se hai visto la mia petizione, se avete visto la mia petizione, ho fatto appello a Mattarella, il Presidente della Repubblica, che diciamo possa abbreviare i tempi, la possibilità di poter abbreviare i tempi, perché la cittadinanza italiana mi potrà essere concessa solo dopo 2 anni dalla domanda. E invece i tempi sono stretti perché a luglio ci saranno gli europei a Sofia, a novembre i mondiali in India, quindi non faresti a tempo? Assolutamente no. Però speriamo di farcela, dai. Tu hai lanciato, lo stavi dicendo, una petizione. Dove si trova questa petizione? La petizione l'ho lanciata sul sito change.org, assieme alla mia associazione di appartenenza. Da quante persone è stata sottoscritta finora la petizione? La petizione è stata firmata da ben 1700 persone. E l'8 maggio ci sarà una conferenza stampa alla Camera dei Deputati a Roma. A cui parteciperai anche tu? Sì, sì. Ci sarò io, c'è l'onorevole Sciauchi, ci sarà il segretario generale Alberto Tappa e molto probabilmente anche il segretario del presidente del CONI Malagò. Perché, insomma, la tua è una richiesta ovviamente personale, però è una richiesta comune a tanti atleti italiani di origine straniera che combattono, nel tuo caso, come boxer, oppure che fanno atletica, che hanno ottenuto delle vittorie, dei successi, delle soddisfazioni in altri sport, il cricket, la pallavolo, ma non riescono ad avere la cittadinanza. E questo penalizza anche lo sport italiano. Assolutamente sì, perché diciamo, parlando personalmente, sono un atleta che si è creata qui in Italia, quindi mi sembra giusto competere per la nazione in cui tu hai fatto lo sport, sei cresciuta e penso che è un diritto. Ci fermiamo brevemente e torniamo a parlare con te tra pochissimo. Il duello Macron-Le Pen si è trasformato nell'evento centrale della politica europea. La sfida francese divide gli osservatori e cattura le speranze dei politici di mezza Europa. In diretta da Parigi con inviati ed esperti, Radio 24 seguirà i momenti decisivi del ballottaggio. Speciale Eliseo con Gigi Donelli, domenica 7 maggio dalle 19 su Radio 24. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor heart break. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! We've got the world and all its charms. And when the world is through with us, we've got each other's arms. You've got to win a little, lose a little, and always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo con una giovane pugile che vuole la maglia azzurra, che ha combattuto nel campionato junior e ha vinto anche il guanto d'oro per l'Italia, ma ora che si trova in competizioni ufficiali non può competere perché non è considerata cittadina italiana nonostante lo sia. Stiamo parlando con un'atleta di 17 anni nata in Tunisia ed è Sirin Charabi. Sirin, raccontaci qualcosa di te. I tuoi genitori che come hanno scoperto questo sport, ti hanno spinta a farlo, erano preoccupati, erano contrari? Soprattutto la mamma era preoccupata, mia mamma all'età di 5 anni non diceva che comunque è uno sport non, sicuramente non per ragazze e che non faceva per me, diciamo, come sport. Tempo è riuscita ad accettarlo. Però mio padre mi ha sempre, diciamo, come dire, sostenuta. E lui è un amante del pugilato, infatti mi ha sempre detto, ho sempre seguito vari incontri importanti e non l'avrei mai pensato di avere una figlia che potesse fare grandi cose del pugilato. Infatti mia mamma mi segue con le diete, con l'alimentazione che devo fare. E mio padre mi sostiene in tutti i miei incontri, viene anche a vedere i miei allenamenti quando è libero. I tuoi fratelli, hai dei fratelli, delle sorelle? Sì, ho due sorelle, una sorella gemella e una sorella più grande. Loro non seguono invece questa tua passione? No, mia sorella gemella sì, ha sempre praticato pugilato con me, però non ha mai, diciamo, voluto praticarlo a livello agonistico come faccio io. Che scuola fai, Sirin? Sono al quarto anno di ragioneria turistica. Vivi a Caserta, ce lo raccontavi all'inizio della trasmissione. È un territorio bellissimo, ma che non offre purtroppo moltissime prospettive in termini lavorativi e che ha anche dei problemi di piccola criminalità. Credi che questo sport, la box, ti abbia in qualche maniera aiutato a dare uno scopo alla tua vita e anche a occupare delle giornate in maniera proficua, facendo appunto dello sport? Grazie allo sport che pratico posso dire che le mie giornate sono molto piene, perché nei giorni in cui non vado a scuola vado in palestra, cioè sono sempre impegnata ad allenarmi e a migliorare soprattutto. Quali sono i tuoi miti in questo sport? Irma Testa, che è una mia collega, diciamo anche in nazionale, mi sono allenata con lei, ho avuto l'onore di allenarmi con lei. Diciamo che può essere anche un esempio da seguire, assolutamente. Senti, la tua è una famiglia credente, siete musulmani? Sì, siamo musulmani al 100%. I miei ci tengono molto alla cultura e diciamo alla religione soprattutto. Tu porti il velo, ad esempio? No, io non porto il velo, anche perché i miei mi hanno lasciato, diciamo, la libertà. Penso sia giusto fare, perché è una cosa che deve partire dal cuore innanzitutto. Però ovviamente pratichiamo, diciamo, preghiamo a casa mia 5 volte al giorno, come dice la nostra religione. E quando c'è il mese di Ramadan facciamo il digiuno ed è così che si fa. Dal punto di vista della comunità tunisina che ci sarà a Caserta, hai avuto un sostegno oppure ci sono state delle persone che avevano delle perplessità? Sono più i marocchini che i tunisini, però devo dire la verità, mi hanno sempre sostenuto e si sono sempre complimentati con me, dirmi continua così, che veramente te lo meriti. Ricca di profumi e di sapori particolari, la cucina tunisina è molto varia e arricchita da un grande utilizzo di spezie come l'anice, la menta e il cumino. La cucina tunisina è inoltre molto piccante. Esiste una storia che narra di una donna anziana che diceva che un uomo poteva giudicare l'amore della moglie dalla quantità di peperoncino piccante utilizzato nella preparazione dei piatti. Tra i piatti tipici della gastronomia tunisina ricordiamo, oltre ai famosi spiedini e al couscous, l'agnello cucinato in anfore di terracotta, il brick, una speciale crepe ripiena di uova, verdura e carne. Abbondante è il consumo di frutta e soprattutto dei dolcissimi datteri. Coltivati soprattutto nel sud del paese, a ridosso del deserto, questi frutti molto dolci sono utilizzati per preparare gustosi piatti. Chi ama il pesce potrà assaggiare il corplet de poisson, pesce fritto o alla griglia con contorni e uova fritte, degli ottimi gamberoni giganti, oppure della cernia preparata con limone, finocchio ed erbe aromatiche. Tra i primi piatti, il più tipico è il brick, una sottilissima pasta triangolare detta malsouka, farcita con un uovo o con ripieno di erbe, che nelle trattorie viene preparata e fritta davanti al cliente. Altra specialità è la salade mechouia, composta da pomodori e peperoni alla griglia, tagliati a pezzetti, mescolati con tonno, uova, capperi e sedano e conditi con olio d'oliva e limone. Fra i piatti forti spicca il couscous, una sorta di semolino fatto in casa che si cuoce a vapore e si serve solitamente con uno spezzatino di carne o pesce e verdure. Si mangia poi tutto insieme, aggiungendo a piacere la famosa haïs, una deliziosa salsa piccante a base di peperoncino rosso e olio di oliva che accompagna molti piatti tunisini. Per quanto riguarda invece la Tunisia, tu sei partita molto piccola. Ti ricordi il tuo paese? Ci torni periodicamente, il tuo paese d'origine? Sì, in Tunisia torniamo ogni anno in estate, quando mio padre prende le ferie. E ogni estate siamo lì con la famiglia, i nonni, i zii, per divertirci un po'. In Italia hai mai avuto difficoltà per il fatto che sei di origine straniera? Hai mai sentito negli altri del razzismo oppure un pregiudizio? Beh, guarda, questo sicuramente è capitato a qualsiasi persona straniera, nel senso anche del fatto che, diciamo, che vedono la persona che vince e va avanti, e loro dicono: beh, guarda, quella è straniera e qui ce la fa. Sicuramente ci sono dei pregiudizi, E ci sono durante stati. i match sei mai stata aggredita, insultata con insulti razzisti? No, durante i match no, assolutamente no, però forse in squadra così, prima di salire, ma mai, durante i match no, devo essere sincera. Cosa ne pensi di questo calciatore che ha subito degli insulti razzisti qualche giorno fa, no? Montari è stato espulso, squalificato, ma allo stesso tempo l'ONU invece l'ha lodato perché aveva protestato contro gli insulti razzisti che gli erano stati rivolti. Beh, si è visto, cioè, in campo, diciamo, è passato per la persona sbagliata, perché comunque lui ha cercato di combattere questo razzismo. Però, finalmente, cioè, comunque ha l'appoggio dell'ONU. Couscous alle verdure. Ingredienti per 4 persone. Couscous precotto, 250 grammi. Acqua, 270 ml circa. Olio extravergine di oliva, quanto basta. Burro, 2 noci. 2 zucchine, una melanzana, 8 pomodori ciliegino. Sale e peperoncino, quanto basta. Qualche foglia di basilico, un cipollotto grande, uno spicchio d'aglio. Preparare il couscous mettendo l'acqua in una pentola larga e capiente. Portarla a ebollizione. Poi versarvi un cucchiaino di sale, aggiungendo il couscous a pioggia, 2 cucchiai di olio, mescolate e poi spegnete il fuoco. Lasciate riposare 2 minuti in modo che la semola assorba l'acqua. Aggiungete 2 noci di burro, fate cuocere dolcemente per altri 2 minuti, poi spegnete il fuoco. E servendovi di una forchetta, sgranate bene il couscous che lascerete da parte. A questo punto lavate e tagliate a cubetti la zucchina, la carota, la melanzana e i pomodorini. Sbucciate l'aglio, tagliate a pezzettini il peperoncino e poneteli a rosolare in una padella capiente assieme a 5 cucchiai di olio e con il cipollotto tritato. Aggiungete quindi le carote, le zucchine e le melanzane. Fate stufare a fuoco dolce per altri 5 minuti, fino a che saranno leggermente cotte, ma non sfatte. Poi salate e spegnete il fuoco. Appena le verdure saranno intiepidite, unite i pomodorini e versate tutto in un contenitore insieme al couscous con qualche foglia di basilico spezzettato. Servite il couscous alle verdure, guarnendolo con delle foglie di basilico. Pensi che il tuo futuro sarà legato allo sport oppure seguirai un'altra strada? Guarda, il mio futuro sarà legato allo sport, è un sogno. Voglio che questa mia passione diventi un lavoro. Anche se è uno sport molto duro, tra l'altro per una donna. Assolutamente sì, però diciamo che io penso che il pugilato rappresenti al massimo la donna, la forza della donna. Grazie. Grazie Sirin per essere stata con noi e in bocca al lupo per la tua richiesta di cittadinanza. Lo ricordiamo che la storia di Sirin è simile a quella di tanti altri ragazzi di seconda generazione che in base alla legge italiana sulla cittadinanza devono aspettare il compimento del 18° anno di età per poter essere riconosciuti italiani. E ricordiamo anche con l'occasione che la legge sullo ius soli temperato, che consentirebbe a tantissimi ragazzi che sono in Italia da sempre e ormai cittadini italiani ma non di fatto, di avere la cittadinanza italiana con delle regole più snelle. Grazie Sirin per essere stata con noi questa sera, in bocca al lupo per tutto. Okay, ciao. Grazie a voi per l'ascolto, ci risentiamo sabato prossimo. Da Valentina Furlanetto è tutto, buona serata, a sabato, ciao. You've got to give a little. That's the glory of